6. Appoggiarono l'imbarcazione al muro del fienile e sedettero sotto la tettoia a riprendere fiato. Joseph riconobbe le facce sporche di molta strada, corpi fasciati in strati di pelliccia, coltelli da caccia alla cintura, Kentucky Jäger a canna allungata, fucili da orsi. «Ricorda che tua madre non li vuole in casa», disse Susanna. Joseph uscì senza replicare. Quando lo videro, gli rivolsero secchi cenni di saluto. Masticavano tabacco o carne salata. Il più anziano parlò per primo. Lo fece in lingua Mohawk. «Salute a te, Thayendanegea!» La testa ossuta e calva, con le grandi orecchie a sventola, spuntava dalla pelliccia di castoro come quella di una tartaruga dal guscio. Da molti giorni non si radeva. Sul volto, cotto dal sole e dalle intemperie, la barba cresceva ispida e grigia. «Benvenuto a casa mia, Henry Hogue!» «Ricordi mio fratello John?» Il giovane grugnì, un saluto incomprensibile, aveva un occhio strabico. Henry Hogue indicò l'altro uomo. «Anche Daniel Secord è dei nostri. Dio ti guardi, Joseph Brent, e protegga la tua casa». Secord dimostrava la stessa età del più giovane dei due fratelli, al massimo 30 anni. Gli amuleti Seneca al collo e ai polsi erano segno di vanità e superstizione. Hogue sollevò un gancio di ferro mostrando le pellicce che vi erano appese. «Tua moglie potrà farti una giacca per l'inverno». Joseph accettò il dono e sedette con loro. «Cosa vi porta, Kanayahoarie?» «Daniel ha preso un lavoro, una ricognizione delle sorgenti salate intorno al lago Onondaga, per conto di un tizio che vuole farci soldi. Noi lo accompagniamo». Joseph passò una mano sulle pelli, soffici e lucide. «Non avete scelto la via più breve?» «Siamo passati per sentire le novità. Girano strane voci, che la colonia è in subbuglio, che i bostoniani vogliono attaccare il Canada. Hanno preso Fort Ticonderoga». Hogue annuì, senza mutare espressione. I due compari si limitarono a fissare l'indiano, gli sguardi neutri di chi riesce a dare poco peso alle sventure. «La faccenda si fa seria», commentò Hogue. «Giù ad Albany che intenzioni hanno?» Joseph ebbe voglia di andarsene. Parlò a fatica. «La milizia si è messa agli ordini dei ribelli». Hogue sembrò studiare quelle parole come fossero uscite dalle scritture. «Potete dormire nel fienile», disse Joseph. «Non fatevi vedere in casa, o mia madre vi maledirà di nuovo». Il giovane spalancò gli occhi. «La vecchia campa ancora!» Il fratello maggiore gli rifilò una pedata che sollevò una nuvola di polvere. «Un po' di rispetto, figlio di cane!» Si rivolse a Joseph. «Sei un uomo generoso, Joseph Brent». Tornò da loro al tramonto, con una lampada d'olio, rum, birra e un tegame di carne stufata. Li osservò mangiare in silenzio, stravaccati sulla paglia, e bere a grandi sorsate, mentre gli occhi si arrossavano e l'alcol scaldava le viscere. Henry Hogue aveva indossato un tricorno consunto per proteggere la pelata dal freddo della notte. Il lungo collo scarnito si protendeva verso il cibo. Aveva un'aria ridicola e non di meno inquietante. «I guerrieri cosa pensano?» «Sanno che i coloni vogliono la nostra terra», rispose Joseph. «Se ci attaccano, dovremo combattere». «Bella gatta da pelare per i tuoi amici del dipartimento». Il fratello più giovane ruttò, asciugando le gocce che colavano dalla bocca. «Se c'è da fare secco un bifolco, contate sul mio fucile». Il maggiore gli lanciò un'occhiata truce. «Johnny voleva dire che noi siamo fedeli sudditi di Re Giorgio». «Non sai nemmeno chi è Re Giorgio», sbottò il fratello minore, cercando di sarsi dal pagliericcio. «Dici così solo perché quel bastardo di tuo cognato sta coi ribelli». Ricevette una scodella in fronte e si accucciò come un cane bastonato. «In un certo senso Johnny ha ragione», intervenne Secord. Era rimasto in silenzio fino a quel momento. Aveva l'aria meno sbronza e più compassata degli altri due. I ciondoli contro il malocchio tintinnarono quando accese il grosso sigaro che coccolava tra le dita. «Con tutto il rispetto, il re chi l'ha mai visto?» riprese. «Se ne sta di là dall'oceano e ci lascia vivere. Invece i furbi, giù ad Albany, sono migliaia. Se si mettono a comandare, vorranno prendersi tutta la terra. Prima quella dei Mohawk, poi quella dei Johnson, alla fine anche la nostra». Harry Hogg fece un gesto in direzione del socio e si rivolse a Joseph. «Ecco una testa che funziona. C'è parecchia gente giù da noi che la pensa allo stesso modo. Tienilo a mente, Joseph Brent». L'indiano rimase in silenzio. La notte era scesa sulla fattoria e sulla valle. Un buio greve senza luna soffocava la terra degli antenati. Guardò oltre il fiume. Nuovi fuochi luccicavano in lontananza. Avamposti del futuro imminente.